24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, quando sono le 7:20 minuti, eccoci qua, siamo come al solito in diretta fino alle 9 con la nostra pagina Facebook già attiva, c'è il nostro Alessandro Longoni che lì scrive, schiaccia tasti sul computer, qualcosa apparirà. Il nostro Peter Bescapè in regia, il nostro alpino con la penna nera che non so è finita da qualche parte, non la vedo più, ma c'è, c'è. E allora di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo certamente di Lampedusa, quello che sta succedendo. Avremo ospite anche il segretario della Lega in Veneto, Gobbo, per capire questa vicenda, insomma, della secessione, la secessione, la Padania. Questa alle 8:20 e poi Lampedusa, Italia, quello che sta succedendo, gli scontri, alle 8:30 ne parleremo. Ma come al solito questi sono due temi che troviamo sviluppati anche sui giornali, giornali che andiamo subito a sfogliare. In questo giovedì 22 settembre c'è da dire che le aperture oggi si dedicano soprattutto alla politica, una giornata anche decisiva, uno snodo importante con il voto alla Camera sulla richiesta di arresto dell'onorevole Milanese. Allora, vediamo le aperture dei giornali. Per il Sole 24 Ore, FMI, il Fondo Monetario, banche europee da rafforzare, questo è il titolo di apertura, mentre, come detto, la scelta della politica per tutti i grandi quotidiani generalisti. Per il Corriere della Sera, vado avanti, parlerò al paese, questo Berlusconi. Così per Repubblica, Bossi, salverò Berlusconi. Il Messaggero, Berlusconi, vado avanti. Per la Stampa, Milanese, voto ad alta tensione. Poi c'è quella frase di Di Pietro sul suo blog, attenzione o qui ci scappa il morto, ed è sia il Giornale che Libero puntano su questo, il Giornale, Di Pietro gioca col morto e Libero vogliono il morto. Per il Fatto Quotidiano la Procura di Milano denuncia Camera complice di Berlusconi. Insomma, queste le varie aperture. L'Unità punta su Italia prigioniera, effetto domino, Standard & Poor's declassa la Fiat e sette banche, l'FMI un paese incerto. Mentre per il Manifesto la battaglia di Lampedusa con le foto degli scontri ieri messi in prima pagina. La politica è anche questa, è una notizia che trovate in piccolo a pagina 3 solo sul Fatto Quotidiano, riguarda l'iniziativa ribattezzata Parlamento Pulito, quella che ha voluto Beppe Grillo, vale a dire una proposta di legge popolare con 350.000 firme presentate al Senato. E che prevede che cosa questa proposta di legge popolare? Prevedeva l'ineleggibilità nell'istituzione dei condannati in via definitiva e in primo e secondo grado con processo in corso, il limite di due mandati legislativi, il ripristino dell'elezione diretta di parlamentari con la preferenza unica. Ebbene, ne avevamo parlato anche di recente quando Gian Antonio Stella sul Corriere aveva denunciato da 3 anni questa legge, proposta di legge popolare, giace sepolta tra gli archivi del Senato, visto che insomma il Senato non è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge popolare, però almeno è tenuto a dire un parere, a dare un parere, dire la esaminiamo oppure non riteniamo esaminarla. Ebbene, il parere è arrivato, non vi faccio il quiz, ma insomma, su secondo voi il Senato come si è pronunciato? Il parere è ovviamente negativo, la casta dice no alla legge Grillo, questo è il titolo del Fatto in questa notizia pagina 3. Caterina Perniconi racconta: 350.000 firme non sono bastate a convincere il Senato a calendarizzare la legge Parlamento Pulito proposta da Beppe Grillo. Questo provvedimento sepolto tra le polveri dei cassetti di Palazzo Madama dai tempi dell'esecutivo di centrosinistra è stato in qualche modo rispolverato dopo una sollecitazione formale dell'Italia dei Valori. Il presidente del Senato Schifani ha deciso di inviare la questione alla riunione dei capigruppo, rimettendo la decisione nelle mani del presidente della Commissione Affari Costituzionali, Carlo Vizzini, che a sua volta ha chiesto ai presidenti dei vari gruppi le loro volontà. La maggioranza si è espressa, insomma tutto un iter procedurale per dire che alla fine si è espressa per un no. Non c'è stato in realtà un voto formale, la decisione è stata giustificata così. Udite bene, la necessità di un percorso ordinario legato alla riforma della legge elettorale. Cioè il Senato ha detto no, non facciamo questa legge popolare, non prendiamo in esame questa legge proposta di legge popolare, perché faremo un percorso ordinario legato alla riforma della legge elettorale. Ovviamente vuol dire non se ne farà mai niente, insomma, questo per tradurlo per tutti i milioni di italiani, milioni insomma, stavo esagerando, che ci stanno ascoltando. La seconda segnalazione che voglio dare per tutti gli amanti della musica, del rock, ma non solo: si sciolgono i REM, uno dei gruppi più importanti, uno dei gruppi più celebri degli ultimi 30 anni. Dopo 31 anni i REM si sciolgono, lo hanno annunciato sul loro sito. Così, insomma, abbiamo deciso di mollare. Ce ne andiamo con un grande senso di gratitudine, compiutezza e incredulità per tutto quello che abbiamo raggiunto. Il Corriere della Sera mette la notizia in prima pagina, insomma, è una notizia che per gli amanti del genere sicuramente può essere anche uno shock, un piccolo shock. D'altronde, il cantante Michael Stipe dei REM, commentando questa decisione, ha scritto: un saggio una volta disse: l'abilità di stare a una festa è capire quando è il momento di andarsene. E i REM hanno deciso che questo era il momento. Dopo 31 anni di rock hanno deciso di sciogliersi. 24 mattino. Allora, una giornata politica importante, uno snodo decisivo secondo qualcuno della legislatura, anche se questa parola snodo decisivo per la verità si è usata varie volte negli ultimi tempi. E intanto è un giorno in cui verso le 12 credo alla Camera, con voto segreto, si deciderà sulla richiesta di arresto per l'onorevole Marco Milanese. E poi ieri c'è stato questo incontro, questo faccia a faccia richiesto da Silvio Berlusconi con il capo dello Stato Napolitano. E proprio da qui vorrei partire, perché i giornali propongono, come al solito, anche dei retroscena di quello che sarebbe accaduto. Beh, intanto il Sole 24 Ore a pagina 11 mette in prima pagina una sorta di risposta che viene data dal Premier alle richieste anche del Sole 24 Ore stesso, col suo direttore ieri, di Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. E la risposta è questa: Berlusconi, non mi dimetterò mai. Barbara Fiammeri racconta: quando è salito al colle, Silvio Berlusconi aveva già con sé le rassicurazioni di Umberto Bossi. Il senatore gli ha garantito che la Lega oggi voterà contro l'arresto di Milanese. Non solo, il Cavaliere vuol metter mano anche quanto prima al pacchetto giustizia. In cima alla lista ci sono processo lungo, prescrizione breve e intercettazioni. E dunque Berlusconi è salito con questo carico, di questo ottimismo, di questa voglia di fare, di questa voglia di non fare alcun passo indietro al Quirinale dal capo dello Stato. Ipotesi di un passo indietro che ieri si era un pochino diffusa, soprattutto quando a un certo punto Berlusconi ha incontrato a Palazzo Grazioli Fedele Confalonieri e Gianni Letta, perché secondo i rumors dei giornali nei giorni scorsi solo Confalonieri e Gianni Letta sono le due persone più vicine a Berlusconi che gli avrebbero anche chiesto, gli avrebbero cercato di farlo di prendere in considerazione questa idea del passo indietro. Berlusconi invece: non mi dimetterò mai. A un napolitano preoccupato per le previsioni disastrose sul nostro PIL, per il debito, gli spread più elevati, il declassamento di Standard & Poor's, che ieri ha tagliato anche il rating di 7 istituti di credito, il Cavaliere ha replicato sostenendo che le misure sulla crescita sono pronte, la manovra approvata a margini per garantire il pareggio di bilancio, e nella maggioranza non ci sono posizioni di dissenso che possano mettere a repentaglio il governo e la sua premiership. Così ancora Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore. Poi ovviamente ci sono appunto i racconti, un po' di retroscena di quello che sarebbe successo. Per il secolo XIX c'è stato un gelido incontro al Quirinale. A pagina 3, Berlusconi e Napolitano, dialogo tra sordi, questo è il titolo. Con Berlusconi che appunto avrebbe cercato di rassicurare il capo dello Stato con il suo ottimismo proverbiale: ho i numeri, non c'è nessun problema. E la replica di Napolitano che sarebbe stata: non mi pare. Il Corriere della Sera invece la pone così: legge elettorale, la verità al paese, ecco la nuova strategia di Berlusconi. È Marco Galluzzo che ne parla a pagina 3. E Berlusconi ha esordito, tornando dal Quirinale a Palazzo Grazioli, con una battuta. Insomma, quando gli hanno chiesto: allora com'è andata, presidente, la questione delle dimissioni? E Berlusconi: no, non mi risulta che Napolitano voglia dimettersi. insomma, all'inizio gelo tra i suoi che lo guardano, poi chiaramente era una battuta. Riesce ancora a giocare il presidente del consiglio, racconta Marco Galluzzo, con le parole vuole rassicurare che gli sta intorno, poi qualche battuta al Corriere della Sera. Dunque il Corriere dice: qualche battuta a noi in esclusiva, e sono queste: è andata benissimo, non si è parlato affatto di questa cosa delle mie dimissioni, che non esiste, ho ribadito a Napolitano che il governo è al lavoro, pienamente in sella, deciso ad andare avanti, sono in pista. E poi ancora l'annuncio al Corriere: quando sarà finita questa storia, quando tutte le carte di questi magistrati che agiscono fuori dalla legge saranno sul tavolo, allora si saprà chi ha avuto torto e chi ragione. Allora sarà il momento di dire la verità al paese, alla stampa internazionale. Farò una serie di comunicazioni e mi sto preparando. E ancora al Corriere Berlusconi, Napolitano: con lui abbiamo parlato di cose concrete, Banca Italia, il lavoro che stiamo predisponendo sul versante della crescita, altro che passo indietro, sono al lavoro, ho una maggioranza, tutto il resto sono cose che non contano. Infine l'annuncio di un voler mettere mano alla legge elettorale: stiamo ragionando su una formula che ridia ai cittadini la possibilità di scegliere i propri eletti, che oggi invece sono nominati dall'alto. Anche il Corriere della Sera, tra l'altro, a pagina 3 fa notare che c'è stato questo incontro nel pomeriggio con Fedele e con Falonieri. E insomma, Fedele Confalonieri, secondo tutti, nei giorni scorsi era colui che, poi la notizia fu smentita dallo stesso Confalonieri, aveva prospettato a Berlusconi la possibilità di fare un passo indietro. Ma invece, insomma, è un Berlusconi molto ottimista, guarda con ottimismo anche alla giornata di oggi. Beh, per esempio la Stampa la mette anche sulla questione un po' come il secolo sul gelo. Presidente, tutto sotto controllo. Questa è la frase di Berlusconi a Napolitano. E il Premier sconcerta il Colle, la visita al Quirinale: batteremo la speculazione internazionale, non temo i PM. E insomma, Antonella Rampino racconta della reazione, che sarebbe stata abbastanza fredda e gelida, del capo dello Stato. Comunque un faccia a faccia di un'ora e mezzo, come è andata veramente, ovviamente lo sanno solo i diretti protagonisti. Anche nel retroscena di Repubblica, Francesco Bei e Umberto Rosso, l'ultimo patto Silvio Umberto, perché c'è stato prima del faccia a faccia col capo dello Stato, Berlusconi si è riunito con tutti i maggiori esponenti della Lega. D'altronde oggi è un giorno decisivo, il voto è segreto e Berlusconi ha incassato l'appoggio della Lega, che con Umberto Bossi ha detto: voteremo sicuramente no alla richiesta di arresto dell'onorevole Milanese. Poi sapete, c'è il voto segreto, quindi tutto può essere nel segreto del voto, può succedere di tutto. Sta di fatto che in questo faccia a faccia tra Berlusconi e i maggiori esponenti della Lega, Umberto Bossi in primo piano, pare che, secondo Repubblica, Berlusconi abbia offerto, con una mossa un po' strategica, a Bossi le dimissioni in maniera un po' ovviamente furbetta. Cioè le avrebbe detto: caro Umberto, se vuoi, se me lo chiedi tu e se me lo dici tu, io mi dimetto. Anzi, abbiamo un patto, ti ricordo, noi due, quando smetti tu, smetto anch'io. Insomma, chiaramente Umberto Bossi pare che abbia risposto: no, secondo Repubblica, io voglio solo la Padania. Poi ne riparliamo a gennaio. E quindi, secondo Repubblica, tutto congelato, a meno alleanza della Lega garantita, fino a gennaio. Se vuoi mi dimetto subito, questo è il titolo a pagina 3. No, ne riparliamo a gennaio, la risposta di Umberto Bossi. E tra l'altro tutti guardano ovviamente a Maroni, ai cosiddetti maroniani, anche se Maroni, l'avete sentito nel GR, dice: nella Lega c'è una voce sola, una voce unica. Però insomma tutti i giornali raccontano invece di maroniani da una parte, bossiani dall'altra. Maroni stavolta si allinea, racconta Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Anzi, scusate, Alessandro Trocino, in questo caso l'articolo. Maroni stavolta si allinea: mi atterrò alla decisione. Oltre 40 deputati sono con il ministro e oggi c'è l'incognita dei dissidenti. Insomma, su che cosa? Sul voto dell'onorevole Marco Milanese. Ma tra l'altro ne parlerà Oscar Giannino dalle 9, parlerà proprio di questa giornata, di uno importante dal punto di vista politico. Un piccolo retroscena, io ve lo dico, so, magari uno dice ma come parlate della categoria, difendete la categoria, no, lo dico perché si sappia e il Quotidiano Nazionale la pagina 9 lo mette in evidenza, così poi uno si regola per capire cosa succederà nei prossimi giorni. Pare che Umberto Bossi abbia formalmente chiesto in questo vertice con Silvio Berlusconi una cosa: cacci il direttore di Panorama Giorgio Mulè. Sul Quotidiano Nazionale, questo è il punto, reo secondo Umberto Bossi di avere avallato un articolo pubblicato su Panorama che ha fatto molto discutere sulla moglie di Umberto Bossi, descritta un po' come l'anima nera della Lega che trama, che decide un po' tutto nell'ombra. La colpa è appunto aver pubblicato questo articolo poco lusinghiero sul ruolo politico di Manuela Marrone, la moglie di Umberto Bossi. E tra l'altro il Quotidiano Nazionale dice: a differenza di quel che fece Confini, pare che stavolta Berlusconi abbia dato soddisfazione all'alleato. Caccerà il direttore Mulè, assicura un leghista. Dunque in questo vertice si sarebbe anche deciso, mi auguro di no, insomma, anche per solidarietà col direttore di Panorama, che è stato ed è anche nostro ospite, ma insomma pare che in questo vertice si sia parlato anche del suo destino di direttore di Panorama. Intanto in questo clima molto pacato di scontro politico tranquillo, insomma di una situazione tutta gestibile, Antonio Di Pietro ha detto: attenzione perché qui ci scappa il morto. Una frase pacata, l'ha fatto con un videomessaggio sul suo blog. E ovviamente si è scatenata subito l'indignazione, c'è il titolo sia del Giornale che di Libero. Libero: vogliono il morto, mentre il Giornale: Di Pietro gioca col morto. Di Pietro si difende in un'intervista a Repubblica, intervistato da Goffredo De Marchis a pagina 4. La disperazione a livello di guardia, sono irresponsabili quelli che la ignorano. Sarei io l'irresponsabile, esordisce così Di Pietro. Io solo ho scattato una fotografia dell'Italia vera, sono passato da Piazza Montecitorio, ho visto gli sguardi imploranti degli operai della Irisbus. Non sono solo loro, in piazza c'erano fasce sociali diverse, disoccupati, pensionati, poliziotti. Questo è il paese, intanto dentro al palazzo i sepolcri imbiancati parlano di rubi, della legge sulle intercettazioni e del processo breve. Perché la rivolta sociale, ecco perché ho parlato di morto, quando esplode è ingovernabile, capito? Non la controlli, ti sfugge di mano, invade tutto. Io prendo atto, il clima è questo. E tra l'altro Di Pietro dice anche al PD: l'irresponsabile sono io o un ministro della Repubblica che proclama la secessione, che vuole spaccare l'Italia in due? Non ho sentito tutte queste critiche per le parole di Umberto Bossi. E poi insomma il senso della denuncia di Di Pietro è questo: il palazzo e l'Italia oggi sono due mondi lontani e distanti, la rivolta sociale è una possibilità vera. E beh, insomma, però questa frase "ci scappa il morto" ha ottenuto una condanna bipartisan. Oh, c'è anche molto ovviamente delle inchieste ancora, le inchieste di Napoli, le inchieste di Bari, con tra l'altro a Bari è diventata un'inchiesta nell'inchiesta, perché è finito sotto inchiesta ora il procuratore capo di Bari, che secondo l'accusa della procura di Lecce avrebbe cercato di ostacolare le indagini della sua stessa procura. Insomma, il traffico. E allora alle 7:47 minuti eccoci qui con le notizie sulle inchieste. Beh, il Corriere della Sera pagina 11 si concentra su cosa? Sul fatto che il procuratore di Bari Antonio Laudati, la procura di Bari che indaga sul presunto giro di escort a casa del premier Berlusconi con le famose 100.000 intercettazioni, insomma è ormai venuto fuori che il procuratore di Bari è indagato dalla procura di Lecce perché le accuse sono quelle di abuso d'ufficio, favoreggiamento e violenza privata. Avrebbe in qualche modo ostacolato la diffusione di questa inchiesta, ha messo degli ostacoli. per questa inchiesta. Oggi il procuratore Laudati sarà ascoltato dal CSM con quello che sarà il suo contrattacco, scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, anche se pesa sulla sua posizione, secondo il Corriere, una relazione che viene raccontata sul Corriere e a firma del tenente colonnello della Guardia di Finanza Salvatore Paglino, che comandava il nucleo di tutela mercato beni e servizi della Polizia Tributaria Barese all'epoca in cui Laudati venne nominato procuratore. Disse che cosa, si scrive in questa relazione? Beh, Laudati appena giunse a Bari premetteva che le indagini in corso avevano creato preoccupazione nelle istituzioni e che la sua presenza in loco era stata voluta dallo stesso ministro della giustizia Alfano, al quale egli aveva garantito una soluzione. Ecco, secondo quanto riferito dallo stesso magistrato, la situazione è arrivata a un punto di gravità tale da poter potenzialmente creare effetti negativi sullo stesso governo, nonché sulla stessa Guardia di Finanza. Insomma, in questa relazione dell'ufficiale della finanza ci parlò di istituzioni preoccupate. Sulla base di questo, appunto, c'è l'apertura dell'inchiesta della Procura di Lecce ai danni del procuratore capo di Bari. Ma poi vabbè, ci sono varie notizie, insomma, ancora la vicenda Ruby con la Procura di Milano che attacca e contrattacca contro la decisione della Camera di sollevare un conflitto di attribuzione perché Ruby sarebbe stata la nipote di Mubarak, insomma tutta la vicenda che ogni volta riepilogare la conoscete già. Secondo la Procura di Milano è una versione risibile Questa di Ruby, nipote di Mubarak. Ecco il ricorso alla Corte Costituzionale, il conflitto vuol fermare la giustizia, la tesi della nipote di Mubarak è una tesi risibile, questo per la procura. C'è poi addirittura un retroscena molto curioso, secondo Libero, che dice, ecco, Repubblica pubblica tutte le intercettazioni, però non ci si è soffermati su questo. Un dialogo tra Barbara Montereale e Patrizia Daddario, vale a dire due delle donne presenti, certamente, in alcune feste a casa del Premier, in questo dialogo viene messo a pagina 5, il complotto contro il CAV è un'idea di Veronica. Questo ha detto Barbara Montereale nella telefonata, ovviamente insomma parole che vanno soppesate, cioè bisogna verificarne la veridicità, però eccola qui la vicenda Noemi Letizia. È stata spinta da Veronica, dalla moglie di Berlusconi, perché lui non vuole dividere l'eredità in parti uguali. Allora Veronica vuole fare saltare questo scandalo, ha pagato Noemi per fare questa cosa qua. Questa è la verità. Questa avrebbe detto, ha detto al telefono Barbara Montereale. Vabbè, diciamo che la situazione finanziaria intanto è una situazione molto difficile. Questo lo sappiamo, Standard & Poor's, dopo aver declassato il rating dell'Italia, ha declassato anche 7 banche italiane. Così il Sole 24 Ore a pagina 4 racconta tutti i dettagli. E tra l'altro proprio nel giorno in cui il Fondo Monetario Internazionale, ne racconta Alessandro Merli da Washington a pagina 5, ha chiesto e ha richiamato sulla necessità di rafforzare le banche stesse. La crisi del debito sovrano nell'area dell'euro rischia di provocare perdite per 300 miliardi, avete capito la cifra, 300 miliardi di euro alle banche europee, questo secondo il Fondo Monetario, e dunque questa instabilità che ha vanificato parte dei progressi compiuti nel riparare i danni della crisi globale scoppiata nel 2007, mette in pericolo il sistema finanziario internazionale. E allora, se Standard & Poor's declassa le banche, 7 banche italiane, se le banche rischiano una sofferenza di 300 miliardi di euro, questo secondo il Fondo Monetario, aggiungo io, se dovessero in uno scenario imprevedibile saltare le banche, insomma, capite che lo scenario non è dei migliori. Come la situazione non è delle migliori, spero sia migliorata oggi, ma ieri era sul punto di precipitare a Lampedusa, dove una rivolta sociale che ha coinvolto intanto soprattutto i tunisini, che sono in via di rimpatrio. Il ministro Maroni ha detto che in giro di 48 ore verranno rimpatriati tutti. hanno fatto una rivolta, c'è stata una guerriglia che ha coinvolto anche gli abitanti locali, c'è il sindaco che è sotto assedio, è in ufficio con la mazza da baseball, è stato qualche ora in ufficio e dice sono pronto a utilizzarla. Un sindaco De Rubeis che si è lasciato anche andare a delle frasi per le quali dice ho chiesto scusa, ma una delle quali suonava così: napolitano muova il culo e venga qui. Insomma è uno un po' fumantino il sindaco De Rubeis. Qualcuno, dice ora il Corriere, tenta di aggredirmi come amico di Berlusconi, perché quando venne Berlusconi fu accusato di essere un po' un tappetino di fronte a tutte le promesse del premier. Io sono un piccolo sindaco pur coi miei 2 metri di altezza e ho un punto debole: l'onore e il piacere di parlare col premier quando voglio, anche a mezzanotte o all'alba. Io parlo anche 20 minuti di fila, lui mi chiede cosa fare, io propongo, lui si mostra disponibile, assicura, promette, io ci credo e mi commuovo. Lo so, è una debolezza, ma così è. Insomma, il sindaco De Rubeis dice io parlo con Berlusconi, lui mi promette le cose, io mi commuovo e quindi poi ci crede. Sul futuro di Lampedusa dice un futuro senza immigrati, via tutti, questa è diventata una guerra. Ma di Lampedusa ne parleremo alle 8:30, non parlo del calcio perché insomma vabbè, Juve e Milan punto e basta, questo è il titolo della Gazzetta, ecco appunto, punto e basta, tanto basti, il calcio per ora lo mettiamo un po' in attesa di tempi migliori nel cassetto. 24 mattino. Allora, alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, tra poco parleremo della situazione a Lampedusa, ma insomma Lampedusa, Italia, Italia, Italia, Padania, non lo so. Per la Padania mi devo rivolgere al sindaco di Treviso, Giampaolo Gobbo, che saluto. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Lei che è anche il segretario della Lega in Veneto, ma è vero che le ha detto, guarda, basta che mi diano un cenno e noi qui siamo pronti per questo referendum? Ma io credo, vede, c'è anche un sito sul Corriere della Sera, sì, che ha avuto circa 10.000 contatti, dove il sì, diciamo, a questo eventuale referendum ha ottenuto oltre il 60%. E cos'è, un sito della Lega però, no? No, assolutamente, no. Se è un sito del Corriere della Sera. Ha un sito certo. Del Corriere, proprio, sì, ufficiale. Sì. Anzi, visto che sono qua, diciamo invito gli amici a votare, a votare, o sì o no. Ma questa storia della secessione, sì, Gobbo, perché sbandierarla in questo momento? Ha sentito anche il capo dello Stato, vuol dire ma il capo fuori dello Stato certamente, giustamente, fa il suo mestiere. Ma vede, c'è una questione in Italia che è la questione, diciamo, meridionale da sempre, ma credo che ci sia accorti finalmente anche della questione settentrionale. Se 4 regioni a statuto ordinario in questo Stato producono oltre il 70% di prodotto interno lordo e pagano il 74% di tasse, credo che è un problema. Questa sia, cioè, è un problema da porre, ma porlo una così. Realtà, una realtà che. Ma vede, il problema è la soluzione. Cioè, secondo lei la soluzione, certo, me lo dica, certo, è la secessione? Sì o no? Allora, il discorso è molto semplice, anche parlando economicamente, su una moneta forte e una moneta debole. Ma anche io direi che al di là che la Padania significa appunto macro regione, quindi passaggio al federalismo iniziale come adesso, per poi arrivare a delle macro regioni, come del resto era il progetto ed era anche la nostra diciamo storia, che aveva iniziato ancora il professor Miglio, ma che è storica da sempre. Del resto gli economisti parlano di Padania, gli economisti negli anni 90 si chiedono quali zone, diciamo, nel mondo senza materia prima, ma per capacità di lavoro, di logiche, di intelligenze, chiamiamole, senza togliere ovviamente niente a nessuno, ma anche di caratteristica, sarebbero riuscite a mantenere le loro popolazioni. Sì. Nei quaderni della Fondazione Agnelli del 92 esce proprio un testo che si chiama Padania, super regio economica o moderna regione europea. Ma la questione è proprio questa, le chiedo, sindaco, lei vorrebbe le macro regioni, vorrebbe il federalismo, certo, o vorrebbe la secessione? Ma è evidente che un sogno in una globalizzazione, ma in un sistema ad esempio europeo dove non ci sono più frontiere, io credo che non sia da meravigliarsi così tanto di questa situazione. Cioè, se gli stati devono arrivare verso l'Europa, giustamente, e con la crisi dello Stato-Nazione che mai come in questo momento vediamo, è evidente che arrivare ad una situazione, attenzione, che possa anche trainare ovviamente altre situazioni. Cioè, cosa vorrebbe lo Stato di Padania? Vorrei capire, vede, proprio. Sì, potrebbe anche essere. Senta, se facciamo il metro di misura, ad esempio, sulla Slovenia, che ha nemmeno 2 milioni o poco più di abitanti, ma di altri piccoli stati che si benissimo, beh, l'Austria fa 10 milioni di abitanti, eccetera. I nostri imprenditori, ad esempio, hanno già preso piede sia in Slovenia che in Austria, dove la tassazione totale arriva al 22%. Sì. Non c'è la burocrazia che c'è in Italia. E ci sono situazioni di ampio respiro e di sicurezza anche economica che sono differenziate rispetto all'Italia. Però è questa, cioè, voglio dire, lei non esclude, dice, perché no lo Stato di Padania? Questo è ma certamente, senta, vede... Cioè, come lo vedrebbe Veneto, Lombardia? Credo che non è su un discorso di confini, vede, ogni stato ha un confine, però i veneti, mi permette, sindaco Gobbo. Sì. Ma diciamo che comunque siamo in Europa, per cui i confini, ad questo esempio, sì, i limes territoriali famosi sono stati superati perché non ci sono più frontiere, non ci sono più dazi, no? Però uno stato c'ha un'istituzione, c'ha un capo di stato, e ci sono delle tassazioni, no, ovviamente. Se 4 milioni e mezzo di statali, io non ho niente assolutamente contro gli statali, ma se il postificio Italia viene praticamente ad assorbire la produzione di una logica, vede, ad esempio, il meridione, se con la cultura, con il turismo, con l'allevamento e l'agricoltura si arrangino così, insomma. Ma no, si arrangino, ma no, perché è una collaborazione, come ripeto, si collabora con l'Austria, con la Germania, con la Slovenia. Però lei la vedrebbe bene, non so, lei, voglio dire, ha il coraggio di dire, io vorrei uno Stato di Padania, vede, diciamo. Noi arriviamo, vede, se l'Italia ha 150 anni, noi veneti, e ricordo che il Veneto comunque arrivava fino a Passo San Marco, che è nell'Alta Bergamasca. Se ricordiamo che si vuole rubare un po' di Lombardia adesso, si sta già allargando. No, le mura di Bergamo sono state fatte da Fra Giocondo, lo stesso architetto che ha fatto le mura di Treviso. Questa è la storia, dottore. Non no, certo, però si vuole già annettere, si vuole già... Mille anni di storia di Repubblica Serenissima, che ha portato alla definizione, ad esempio, della moderna Europa, dove c'era la differenziazione fra potere temporale dello Stato e potere religioso della Chiesa già a suo tempo. Quindi è con un'apertura totale, se ricordiamo il fondaco dei turchi, il ghetto degli ebrei e il fondaco dei tondeschi, ci rammentiamo comunque che c'è una situazione. Ma che la storia è millenaria, mille anni. Ho capito, ma la storia nessuno la cancella. Sì, comunque il passato certamente. No, ma nessuno lo cancella, è glorioso. Ma non vedo perché ci sia da irridere, da essere così in una logica che ormai è globalizzata, in una situazione dove non ci sono frontiere, e io credo che darsi una situazione ovviamente anche organizzativa, economica, eccetera. Vede, il 27 del mese non arriva dal buon Dio. Ma certo, ma lei vorrebbe anche le istituzioni indipendenti, cioè nel senso vorrebbe uno Stato di Padania con un presidente. È sburocratizzato, se riusciamo a farlo in Italia, bene, ma vede, il problema potrebbe essere anche con un diverso passaggio. Ricordo ad esempio che lo stesso giudice Falcone sul libro, che lui non ha scritto libri, ma su quello che dettava, sì. Ad esempio, lui parlava molto chiaro del sistema delle due Italie, dove che non si sarebbe potuto appunto pensare di unificare questo sistema se non si fosse abbattuta la mafia, mafia, 'ndrangheta e camorra, eccetera, che è effettivamente un controstato culturale. E quindi la situazione, se in 150 anni non si è riuscito a fare questo, e oggi vediamo anche purtroppo il fallimento anche economico di questa situazione, io credo che potrebbe essere anche un nostro sogno. Vede, io ho uno zio che ha fatto il partigiano combattente, ho due nonni, due avi che hanno entrambi la croce di guerra nella prima guerra mondiale, con ferite di arma da taglio e arma da fuoco, quindi abbiamo già dato, cioè non è una questione, ha già dato all'Italia, ma nel senso che non è una questione assolutamente diciamo così di separatismo malvagio, perché l'amicizia sareste in amicizia sud, io ho degli amici meravigliosi del sud, ma è sulla situazione dello Stato. Va bene. Allora, o si crede allo Stato e non accettiamo il controstato, sì, e quindi cerchiamo tutti di darci da oppure ognuno, appunto, io credo che proprio per l'aiuto, vede, se si ferma la locomotiva che traina i convogli, io credo che si ferma anche l'ultimo convoglio. Va bene, sindaco, io qua la devo però fermare anch'io perché devo andare in pubblicità e meteo. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, il sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo della Lega e anche segretario della Lega Nord in Veneto. 24 mattino. Allora, Italia, Lampedusa, ieri una giornata di guerriglia civile, che cosa sta succedendo? Intanto ne vogliamo parlare con due deputate, due onorevoli, l'onorevole Livia Turco del Partito Democratico, buongiorno, responsabile anche immigrazione del partito, e l'onorevole Margherita Boniver del Popolo della Libertà, buongiorno e benvenuta onorevole Boniver. Buongiorno. Vi ascolta anche il sindaco Bernardino De Rubeis di Lampedusa, sindaco buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi voi. So che va meglio. Lei ieri si è lasciato andare anche a qualche intemperanza. Poi lei è uno così, dice delle cose e poi chiede scusa. Ha detto il capo dello Stato, per esempio, muova il culo e venga qui. E poi. Certamente, parole forti, perché dopo quello che è accaduto mi sono sentito un po' solo. E tra l'altro, con lo scenario di guerriglia che c'era in atto. Avevo bisogno di sfogarmi, perché pressato anche dalla popolazione, perché abbiamo avuto modo di accogliere oltre 55.000 immigrati. Popolazione che, sindaco, una parte, qualcuno, le rimproverano che cosa? Quella visita del Premier in cui lei è stato accusato di essere lì così un po' a tappetino, senza dire niente alle promesse. Vede, io sono il sindaco di Lampedusa e pertanto ho accolto tutti, da destra a sinistra, con tutto il dovuto rispetto per la carica che occupo. Poi le appartenenze politiche le lasciamo da parte. Naturalmente Lampedusa ha dimostrato un'esagerata e necessaria accoglienza in questa emergenza umanitaria. Prima il fronte tunisino, poi il fronte libico, ora si è aperto nuovamente il fronte tunisino in modo irregolare, con degli accordi bilaterali in atto, dove questa povera gente che vuole uscire, sono immigrati economici, hanno solo un tragico destino, quello di essere rimpatriati. Purtroppo quello che è accaduto sono stati i 300 rimpatri nelle giornate precedenti, che sono partiti da Lampedusa con uno scalo tecnico. Il tempo di arrivare in Tunisia, hanno informato con i cellulari i restanti immigrati all'interno del centro, che hanno fatto, hanno appiccato al fuoco. Allora, stia con noi ovviamente, sindaco. Onorevole Boniver, in 48 ore il ministro Maroni ha promesso risolveremo tutto, ma cos'è quello che è successo ieri? È una dimostrazione che finora la situazione è scarsamente sotto controllo, oppure un episodio sporadico? No, io mi auguro che sia un incidente, ma anche che è gravissimo, ma che sia stato contenuto. Penso che è finito il peggio in questa occasione. Saranno evacuati tutti nelle prossime ore, sono stati annunciati già 11 voli speciali, sono credo già arrivate delle imbarcazioni, delle navi per farli transitare e portarli via da questo piccolo angolo di paradiso, il quale subisce ingiustamente una pressione assolutamente intollerabile. Sono stata in due occasioni a Lampedusa, una volta nel 2009, ogni volta ho incontrato il bravissimo sindaco De Rubeis, che si comporta in un modo ineccepibile, malgrado appunto qualche parola che gli è scappato ieri, e che saluto molto calorosamente perché rappresenta in un modo molto, molto degno quello che è lo spirito di quasi tutta la popolazione lampedusana, che ovviamente però si capisce, si comprende. È un po' esasperata. Dagli eventi di queste ultime ore. Vediamo se la stessa lettura, la prima lettura, o se lei, onorevole Turco, la vuole porre sul fatto, cioè è una chiara dimostrazione quello che è successo ieri, che c'è una gestione sbagliata, insomma, di questa emergenza. Dunque, intanto anch'io voglio salutare il sindaco Rubeis e ringraziare i cittadini di Lampedusa, perché mi sono resa conto, stando lì, quanto non sia facile questo. Non sia facile fare il sindaco di Lampedusa, anche perché fin dall'inizio su questa vicenda ha avuto un governo che si è contraddistinto per improvvisazione, abbandono e demagogia, sparate demagogiche una dietro l'altra, le ville, il turismo, portiamo via in 48 ore, poi i problemi sono quelli. Leggo, mi sono tenuta alla dichiarazione di un rappresentante dell'OIM che dice l'incendio di Lampedusa purtroppo era prevedibile, da giorni all'interno della struttura di accoglienza si era creata un'atmosfera molto tesa a causa dell'alto numero di migranti tunisini presenti, oltre 1300, e la mancanza di trasferimenti su terraferma, cioè c'è stata improvvisazione, tante volte abbandono, la volontà di dimostrare che noi eravamo invasi, anche quindi un uso politico di questa vicenda, e noi che siamo un paese che per la sua collocazione geografica dovrebbe avere risolto in modo strutturale il problema della capacità di accoglienza e della gestione delle emergenze, ci siamo trovati appunto ancora una volta totalmente questa spiazzati. Situazione. Su questo, onorevole Boniver, cioè l'accusa è dire non si è utilizzato questo tempo per gestire, non so, i centri di dove smistare poi le persone, perché poi alcune avranno diritto magari a rimanere, altre invece sono dovranno essere rimpatriate, cioè si è stata una situazione di stallo per cui poi a Lampedusa, dove arrivano, man mano si ingrossa e periodicamente succedono queste cose. Sì, e oltretutto succedono queste cose anche perché c'è il sospetto più che giustificato che man mano che vengono portati fuori dall'isola arriva praticamente lo stesso identico numero. Questo è una sensazione che trova riscontro nel fatto che nel centro di accoglienza che c'è nell'isola possono essere ospitati decentemente non più di 700-800 persone, è già un numero molto elevato. Calcolando che la popolazione di lampedusani è molto molto cioè, piccola. Lei dice e ne arrivano 700, ogni volta che ne portiamo via ne arrivano 700, è come se qualcuno svuotare, gestisse questa cosa. È come svuotare, diciamo, una piscina e dopodiché viene riempita. Naturalmente poi bisogna distinguere fra quelli che appunto devono essere rimpatriati e possono essere rimpatriati perché il governo ha ricontrattato, diciamo, un accordo bilaterale di cooperazione e di rimpatri con il governo provvisorio della Tunisia. Sappiamo anche in che stato è la Tunisia dopo la rivoluzione dei Gelsomini, ancora la situazione non è definitivamente stabilizzata e quindi anche dal punto di vista economico ci sono forti motivi per cui i giovani tunisini cercano evidentemente di passare, di andare soprattutto in Francia, comunque arrivano. Ma lei mi sta dicendo che è un po' inevitabile, è un po' inevitabile. No, però le chiedo, mi sembra un'emergenza che non è un'emergenza che può essere quantificata prima o dopo. In genere arrivano i barconi Ma lei mi sta dicendo che in qualche modo anche è anche inevitabile, mi sta dicendo, una situazione che periodicamente capiti questo, perché man mano arrivano, cioè purtroppo non c'è. Sì, guardi, la stessa identica cosa è capitata a Pantelleria, dove anche lì hanno incendiato una sorta di struttura, una caserma che era stata adibita per dare loro, diciamo, un ricovero, una protezione, eccetera, prima del rimpatrio, e anche lì sono stati immediatamente poi evacuati proprio perché il Viminale ha dimostrato anche una capacità di reazione immediata. Una situazione in parte, lei dice, purtroppo inevitabile. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, sindaco De Rubeis, perché c'è stato qualche episodio, per esempio c'è un operatore di Sky oggi con foto sul giornale con un occhio nero, qualche aggressione, sarà stato qualcuno, non so, che ha perso un po' la testa, ma che sta succedendo, perché anche aggredire i giornalisti. Ma intanto io ero testimone oculare del fatto. E che è successo? Nel senso che ero lì, una telecamera di Sky con un operatore stava passando per cogliere le immagini di protesta con quegli immigrati con gli striscioni a pochi metri di distanza, la bombola di gas che volevano far esplodere accanto al serbatoio del carburante. Pertanto si è cercato di togliere quelle immagini che comunque erano preoccupanti, si è scongiurato una tentata strage e lì poi successivamente a nome di tutta la popolazione ho chiesto scusa alla direzione Sky che in questi ultimi tempi devo dire che ha pubblicizzato bene il territorio anche nell'aspetto turistico. Non dimentichiamo però che alcuni giornalisti, non sono tutti, nel periodo dei 6.300 immigrati hanno fatto sciacallaggio mediatico determinando la sindrome della paura nella nazione e ha determinato un 70% del calo turistico. Per quello un po' scena, una parte della gente ce l'ha per questo. La scena che abbiamo visto ieri è una scena quasi apocalittica e non bisogna guardare solo e fermarsi a quella scena, ma bisogna andare indietro da 20 anni, nel senso che sono passati governi di destra e di sinistra, noi siamo sempre qui a Lampedusa e abbiamo accolto dal 9 febbraio 55.000 immigrati sono stati accolti. Ma questo sì, ce l'ha detto. Sindaco, le chiedo questo, lei non si rimprovera nulla di quella visita del premier Berlusconi? Cioè, nel senso, ci furono delle promesse, alcune anche magari un po', nel senso, compro la villa che forse ha comprato, non lo so, o il premio Nobel per la pace per Lampedusa, la proposta di costruire campi da golf a Lampedusa. Ma io devo dire che chi governa, o di destra o di sinistra, siamo noi i piccoli e grandi politici condannati ad essere criticati, c'è poco da fare. E quando Berlusconi è arrivato a Lampedusa, a distanza comunque di oltre 58 giorni, questo lo dobbiamo dire, l'ho sempre detto, è venuto a Lampedusa a fare 10 promesse, io li ho identificate come 10 comandamenti, non c'erano nelle promesse né campi da golf né casinò, è stata una proposta di un mio assessore al turismo, mentre la liberazione è stata fatta dagli immigrati, parola liberazione un po' forte, poi le navi rada, va bene, tutta una serie di provvedimenti di protezione civile all'interno della finanziaria, anche la sinistra ha approvato quel disegno di legge per quanto riguarda la zona franca extra urbana e poi in Consiglio dei Ministri. Quindi ne ha mantenute. In parte ne ha mantenuti, però governare non è una cosa facile. Onorevole Turco, ha sentito, insomma, il sindaco dice in parte sono state mantenute queste promesse fatte da Berlusconi. Il sindaco poi deve essere d'accordo con se stesso, perché un giorno dice che le promesse sono mantenute, poi che è totalmente abbandonato da Dio, quindi resta il punto del governo dell'immigrazione, che non è facile, perché per esempio prendiamo la Tunisia, no? La gestione dei flussi di tunisini, non è facile, io sono all'opposizione ma non dimentico che ho governato, non è facile perché bisogna avere... Si governa l'immigrazione solo attraverso degli accordi bilaterali forti, accordi bilaterali che presuppongono che dall'altra parte ci sia un governo riconosciuto con il quale si tratta alla pari, accordo bilaterale che prevede, perché così funzionano, così ha funzionato quello con l'Albania, così ha funzionato quello che fece Giorgio Napolitano con la stessa Tunisia, ingressi regolari, quote di ingressi regolari stabili di anno in anno, aiuti alla cooperazione e da parte dei paesi la gestione della riammissione delle persone clandestine. Però se così come si fa? Cioè se dall'altra parte non c'è un paese per esempio forte, infatti, riconosciuto, come si fa? Sto dicendo questo, sto dicendo che io capisco una difficoltà di un interlocutore che ha una sua fragilità, però questa è la strada che bisogna intraprendere, quindi io, come dire, la raccomandazione e il sollecito, la richiesta che faccio al governo italiano è che faccia un po' meno demagogia, dica un po' meno, che li riporta via tutti, perché tanto sa che non lo può fare se non c'è collaborazione dall'altra parte, doti finalmente questo paese, perché è da tanti anni che governano e non può essere che noi siamo ancora sprovvisti di strutture per l'accoglienza e di strutture per l'identificazione. Siamo un paese che ha questa collocazione geografica, quindi saremo sempre esposti. Basta con le emergenze. L'onorevole Bonnivers è una persona autorevole nella materia dell'immigrazione. Lei è stata una delle prime che ha iniziato con l'Albania, eccetera, e credo che possa condividere esattamente quello che sto dicendo. Cioè, basta con l'emergenza. Bisogna, come dire, sì, mettere attrezzati e mettere una cosa a regime. Sindaco di Rubeis, le chiedo anche questo. Lei ha detto ci vuole un futuro senza immigrati oggi nel Corriere della Sera, cioè basta questa situazione, ma come si fa a fermare quel flusso naturale di persone, alcune delle quali scappano? Cioè, voi siete lì geograficamente, no? Purtroppo non ci si può fare nulla, sindaco. Ma cioè, dove arrivano le barche? Lì? Basta con gli immigrati. Io ho avuto, intanto saluto l'onorevole Turco e la Bonnivers, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, sono venuti qui in prima linea nei momenti caldi. E Lampedusa è un punto strategico. Ieri il ministro ha fatto delle promesse nel tardo pomeriggio. La prima promessa, quella di trasferire nelle 48 ore, la seconda, quella più importante, che dichiarerà nelle prossime ore il porto di Lampedusa non sicuro per gli eventi sarre, nel senso che non arriveranno. Gli eventi sarre sono salvataggi in mare, praticati dalle forze dell'ordine. Ora dico non sicuro, perché a Lampedusa non ci sono più strutture idonee, perché quella di Capoponente chiusa per essere risistemata e quella di Imbriacola incendiata, e pertanto ieri sera quelli che sono stati ospitati e sono immigrati e sono uomini hanno passato la notte a pochi metri di distanza. Cioè, lei ci sta dicendo, sindaco, siccome siamo in chiusura, che se arrivano intercetta la finanza, la capitaneria, li portano una nave, li porteranno a Porta Empedocle. Cioè, nessuna nave arriverà più a Lampedusa. Ok, nessuna nave arriverà più a Lampedusa, perché verrà giudicato insicuro il porto, insomma, e quindi verranno portati altrove. Va bene, sindaco, intanto questo l'annuncio, insomma, che ci dà, e che oggi il ministro Maroni dovrebbe prendere come decisione. Intanto vi ringrazio, dal sindaco Bernardino De Rubes di Lampedusa, gli onorevoli Margherita Bonnivers del Popolo della Libertà e Livia Turco del Partito Democratico. Con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, e lì sulla pagina Facebook già 24 mattino, siamo pronti, scrivete i vostri commenti, iscrivetevi, sempre più numerosi. C'è anche l'alpino Peter Bescapè, forse con la sua foto. E che dire, do la linea a Oscar Giannino, che si occupa del caso milanese, oggi il voto sulla richiesta d'arresto alla Camera, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.